La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 5 secondi. Oscar Giannino vi saluta come sempre in diretta qui da Milano e vi ringrazio per l'ascolto. Siate in diretta anche in podcast, anche voi. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it e il numero di telefono per intervenire nella puntata 800 24 00 24. Vi dico subito di che cosa parliamo in questa mezz'ora. La coda polemica sul voto della Camera per il ricalcolo dei vitalizi contributivi degli ex parlamentari, quelli che erano, non sono stati rieletti in questa legislatura e ai quali quindi si applicava solo un tetto massimo rispetto ai gli assegni previdenziali con il vecchio sistema, quello dei vitalizi, che però incassavano entro un tetto massimo che era intorno a 10-11 mila euro, ma con le vecchie regole, e il ricalcolo contributivo esteso anche a loro. È su questo che ha votato la Camera tra mille polemiche, e io vi chiedo se questo tentativo, che in effetti questa volta ha funzionato meglio del solito, dei parlamentari di avere grande consenso dicendo siamo vittime dell'antipolitica, e che ha visto molti osservatori, giornalisti, editorialisti cambiare opinione dicendo è sbagliata questa cosa del ricalcolo contributivo dei parlamentari, significa cedere all'antipolitica, cioè ai 5 Stelle, parliamoci chiaro, perché l'antipolitica politica significa dire questo, secondo voi era giusta o era sbagliata? Cioè, se hanno ragione, io me lo chiedo criticamente, perché io sono un sostenitore di questa formula da sempre, mi sono beccato negli anni fior di insulti da molti ex parlamentari, ma anche parlamentari attuali, dicendo che questa era una proposta impropria perché significava dire che il problema dei vitalizi era irrisolto, perché loro dicevano è risolto con la riforma del 2012, che però è il calcolo contributivo ma solo per i parlamentari, non a cui si continua a versare gli assegni prima. E la questione famosa dei diritti acquisiti, che loro dicono incostituzionale, non è vero, la Corte Costituzionale più volte in materia previdenziale ha detto che gli interventi si possono fare anche modificando i criteri in vigore prima, purché l'equilibrio, l'intervento sia equilibrato, proporzionato, cioè non deve colpire chi ha meno, e vorrei vedere che stiamo colpendo chi ha meno, e purché poi in alcuni casi ha aggiunto anche le risorse risparmiate rimangono all'interno del sistema previdenziale. E io batto le mani, perché bisogna pensare appunto alle pensioni, che con i quali oggi, siccome in un sistema a ripartizione i contributi versati ogni mese servono a pagare quelle pensioni di chi ha di più e ha grandi regali col sistema retributivo per di più privilegiato come era quello dei vitalizi, meglio trovare risorse da far tenere all'interno del sistema, ma per chi ha molto meno, a cominciare dai giovani penalizzati. Quindi, come vedete, io l'ho sempre detto, però questa volta è successa una cosa che mi ha colpito, pur essendo certo, accetto scommesse con voi, che in Senato entro fine anno non passerà mai questa cosa, non passerà, quindi abbiamo speso alcune settimane di inutile polemica. Vi chiedo se davvero vi siete convinti anche voi che il ricalcolo dei vitalizi precedenti alla nuova riforma sia la vittoria dell'antipolitica, sia uno sfregio all'istituzione parlamentare. Vi dico solo questo perché ancora una volta stamattina Tito Boeri, presidente dell'INPS, che ha il torto di pensarla esattamente come me, ha molto insistito su questo, e che è favorevole come me al ricalcolo contributivo sopra una certa soglia anche degli i regali dei sistemi dei pensioni retributivi private, sopra una certa soglia, sto dicendo che è sopra un multiplo della soglia del minimo vitale, un multiplo elevato, vogliamo dire 3.000 euro, 3.500, 4.000, quello che volete voi, però io lo sostengo e ho sostenuto la necessità di questa cosa per i parlamentari, proprio perché si possa estendere un domani anche a chi ha l'eccesso di regalo delle pensioni retributive. Detto tutto questo, Boeri ha detto: ci dite allora, cara amministrazione della Camera e del Senato, quanti sono i versamenti dei parlamentari? Ha avuto una rispostaccia dicendo: vai a vedere sul sito se non sai neanche leggere, perché c'è già. Peccato che lì ci sia la somma dei contributi di tutti i parlamentari, mentre qua serve invece sapere ciascuno quanto ha versato. Questo solo per darvi l'idea di come siamo messi istituzionalmente. Quindi chiamate, diteci se 800 24 00 24, voi considerate che è stata una indegna gazzarra messa in atto dall'antipolitica, mentre invece andava tutto bene così com'era, era giusto perché si tratta di rispettare il Parlamento. Allora ci aggiungo l'argomento della puntata, non è riparlare di questo perché se ne è parlato a Iosa, ma oggi un collega ha giustissimamente, secondo me, preso la questione aggiungendovi un altro capitolo, perché se facciamo il calcolo contributivo dei vitalizi dei parlamentari, Mica ci possiamo dimenticare i signori burocrati del Parlamento, perché anche loro hanno un singolare regalone, e perché non ci dovremmo occupare anche di loro? Quindi ho chiamato il collega, che è un giornalista del Giornale, si chiama Gian Maria De Francesco, e ha maggior ragione per spiegare che io sono favorevole, dopo i parlamentari, a farlo a molti altri, e ringrazio l'INPS che in questi anni ha pubblicato i dati che però ognuna delle diverse gestioni previdenziali poi che hanno fatto convergenza in tutto l'INPS ha dimostrato carte alla mano di chi stiamo parlando, cioè stiamo parlando delle gestioni dei fondi dei dirigenti di alcune categorie come i post-telegrafonici, come i dipendenti delle telecomunicazioni, come Ferrovie dello Stato, che ogni anno si beccano 4 miliardi di euro di integrazione dalla fiscalità generale che vanno al bilancio delle ferrovie grazie al fatto che non avevano parametri uguali a quelli di voi cittadini qualunque per la rivalutazione del contributi versati per fare il montante finale che poi definisce l'assegno. Ecco, siamo in un'Italia in cui c'erano figli e figliastri. Ecco, questo è il punto. Però ricominciamo allora dai burocrati del Parlamento, visto che almeno la Camera ha votato il ricalcolo contributivo per gli ex vitalizi degli ex parlamentari. Gian Maria De Francesco, grazie di averlo scritto e grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, iniziamo a spiegare il problema, perché ci sono pensioni d'oro dei dipendenti di Camera e Senato. In che cosa sono d'oro, cioè diverse da quelle dei cittadini comuni? Sono diverse su molti punti. Chiaramente, come avevi anticipato, il discorso è legato alla disparità enorme che c'è fra il montante contributivo e poi gli assegni previdenziali che vengono erogati, perché fino alla fine del 2011 tutti questi trattamenti pensionistici sono stati calcolati con il metodo retributivo. Quindi, per cui, siccome i dipendenti della Camera e del Senato hanno retribuzioni di tutto rispetto, perché gli scatti sono molto consistenti, ancorché siano su base biennale, come ancora in alcuni contratti di lavoro, quindi avendo questa opportunità di non solo ricevere una pensione retributiva, ma anche di guadagnare bene, ce ne sono molti che sono andati in pensione con trattamenti annui lordi nell'ordine dei 100.000 euro, anche più, perché giusto per fare un esempio, una delle figure più conosciute, il commesso della Camera o del Senato, che si chiama assistente parlamentare, pure entrando, cioè entra già con un salario d'ingresso di tutto rispetto che è di 35.000 euro annui lordi, però dopo 20 anni diventano già 60.000, e dopo 30 si va a 99.000 euro annui lordi. È chiaro che i pensionati commessi che ricevono l'assegno dalla Camera e del Senato, perché bisogna ricordare che c'è l'autodichia delle due camere, cioè sono autonome, quindi sono le stesse camere che hanno un fondo per i trattamenti pensionistici che viene alimentato dal Ministero dell'Economia, perché chiaramente il Ministero dell'Economia per ogni legge di bilancio ha il capitolo apposito funzionamento degli organi costituzionali. Ebbene, con le nostre tasse si pagano questi trattamenti pensionistici retributivi per la maggior parte, perché poi non il flusso di pensionamento non è stato altissimo, anche se nel corso degli ultimi 10 anni il personale si è abbastanza ridotto, quindi il Senato è passato da 1.000 dipendenti a 600, ma parliamo di flussi in media di 40 pensionati all'anno. 40 pensionati all'anno per il solo Senato, alla Camera la proporzione grosso modo è la stessa, che però fanno, alla fine producono somme veramente importanti. Basta solo soffermarsi sull'anno scorso, il 2016, i versamenti previdenziali della Camera e del Senato sono stati rispettivamente... Stiamo parlando sempre solo dei dipendenti, non dei parlamentari. Sì, sì, sì, sempre dei dipendenti. Sono stati rispettivamente di 35 milioni circa a Montecitorio e 36 milioni grosso modo a Palazzo Madama. A fronte di questi versamenti qui abbiamo alla Camera 260 milioni di pensioni erogate e al Senato 145, il che fa un rapporto tra trattamenti erogati e contributi versati nell'ordine dei 4,7 alla Camera e 4 al Senato. Visto che avevi citato all'inizio il paradosso INPS, io avevo considerato nell'articolo solo la questione molto più generale, perché poi è chiaro che nell'INPS ci sono tante gestioni che sono in pesante sbilancio e che assomigliano come andamento a questo qui. Però se consideriamo l'INPS come l'ente pensionistico più o meno di tutti gli italiani, grosso modo, si riscontra che l'INPS ha un rapporto tra contributi versati ogni anno, che sono nell'ordine dei 225 miliardi, e pensioni erogate, che sono grosso modo 275 miliardi, che fa 1,25. Quindi questo fa vedere come appunto ci sia uno sbilancio devastante nelle pensioni di Camera e Senato dei dipendenti, ripetiamolo, che appunto non saranno almeno nel breve termine cambiate, perché se gli onorevoli e i senatori passeranno a contributivo, ove mai dovesse essere approvato il DDL Richetti, i dipendenti delle due Camere invece non sono toccati. Non sono toccati, e noi continueremo ad avere un bilancio annuale che vede contributi versati e trattamenti erogati con i 4/5 dei trattamenti che vengono dalla fiscalità generale. È giusto questo? È giusto, cari ascoltatori? Dove sta sollevare questo problema? In cosa consiste ledere la credibilità, il prestigio delle istituzioni? Perché questa è l'accusa che viene rivolta ai rompiscatole come me. Stai ledendo il prestigio delle istituzioni. Miserabile antipolitico, populista, demagogo. Stai zitto, perché poi ovviamente a me cosa dicono? Stai zitto, che non è... No, scusate, i numeri dicono un euro di contributo, 5 euro di trattamento versato. Allora, di trattamento incassato. Allora, non bisogna porselo il problema. Ripeto, e come ce lo siamo posti per i parlamentari, anche se non lo approveranno, io lo voglio porre per i dipendenti di Camera e Senato, per sopra un certo multiplo. Sopra un certo multiplo non voglio toccare le pensioni da 1000 euro, nemmeno da 2000 euro lordi, ma sopra un certo multiplo. La mia opinione è che, essendoci un gravissimo sbilancio annuale del sistema, che in parte paghiamo... ripeto, a ripartizioni, in parte lo paghiamo dalla fiscalità generale, allora io dico che è un problema verso chi ha meno, io dico che è un problema verso chi è giovane e ha tutta l'intera carriera pagando con i mesi, ogni mese col sistema ripartizioni questi assegni regalistici, però non avrà mai lo stesso trattamento perché è integralmente soggetto fin dalla riforma Dini al sistema a contributivo, che io avrei voluto contributivo a capitalizzazione, cioè quello che molti di voi ascoltatori sono convinti che sia, che ognuno accantona di mese in mese i suoi contributi e quello è il montante, il suo tesoretto che ben investito gli va restituito. Invece non è così, perché quello sarebbe un sistema, ripeto, contributivo ma a capitalizzazione. No, noi, voi più giovani, siete in un sistema contributivo ma a ripartizione, quindi le pagate voi e anche purtroppo il contribuente, perché non bastate voi a pagare tutto quello che prima, in un paese che cresceva molto di più, A, B, aveva molti meno disoccupati, C, aveva un tasso di pressione del mercato del lavoro che non è mai stato molto elevato, ma comunque non aveva una piramide demografica così scombinata e soprattutto non aveva nelle classi più giovani lo svantaggio di reddito e patrimonio che si è accumulato in tutti questi anni. Ecco perché poi il sistema non regge più ed ecco perché rompiscatole come me, a prescindere da quello che voto o non voto e a prescindere dal fatto che non sostengo certo la posizione di un partito, però numeri alla mano dice: se iniziamo dai parlamentari, poi piano piano la estendiamo, e dai burocrati di Camera e Senato la estendiamo anche agli altri, ma per motivi di equità. Adesso abbiamo un minuto di informazione sul traffico e poi torniamo. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... La versione di Oscar. Allora, eccoci tornati in diretta. Due aggiornamenti. A Roma l'amministratore unico dell'ATAC, Manuel Fantasia, ha ritirato le deleghe al direttore generale, l'ingegner Rota, dopo le due interviste rese dall'ingegner Rota a quella della sera al Fatto Quotidiano di ieri, in cui diceva di aver informato il sindaco Raggi del fatto che l'ATAC non è in condizione di andare avanti e dovrebbe quindi avviare il concordato preventivo. Mi pare un pessimo segnale, ve lo dico in diretta, perché il segnale è che se un amministratore, un dirigente di una impresa a cui testa è stato nominato dalla politica dopo una gara pubblica, gli levano la delega, perché l'invito è a stare zitto sulle condizioni che ha riscontrato finanziarie, patrimoniali e di gestione della società, è un pessimo segnale. Il problema è dimostrargli se ha ragione o ha torto in tutto quello che ha detto sul fatto che oramai solo grazie ad artifici ed anticipi contabili onerosi l'ATAC riesce a pagare gli stipendi, ma non è in grado di generare cassa né per il risanamento e azzerare il deficit, né per sottoporsi agli oneri finanziari del 1.350 milioni di debito finanziario, né per pagare i 300 milioni di debito commerciale ai fornitori che hanno infatti sospeso le forniture. Queste sarebbero le risposte da dare. Se la risposta è defenestrarlo, credo che sia una pessima cosa. Questa è la mia opinione. La seconda notizia viene da Amburgo. Da Amburgo le autorità, dicono le agenzie, avrebbero lanciato un allarme, non ancora certo terrorismo, a seguito di un accoltellamento in un grande magazzino. Speriamo di no, vi terremo naturalmente informati di tutti gli sviluppi. Sentiamo rapidamente come la pensa qualcuno di voi su questa materia. Aveva ragione chi si è sollevato nel passaggio solo alla Camera, vedremo al Senato, ma io credo di no, del ricalcolo contributivo degli ex parlamentari che erano rimasti quindi col vecchio sistema, tranne un tetto massimo per così dire. Giuseppe da Pordenone come la pensa? Giuseppe, prego. Buon pomeriggio Oscar, volevo intanto fare complimenti a lei e alla trasmissione per la qualità dei contenuti che è sempre riuscita a garantire. Grazie. Volevo precisare che le obiezioni che le fanno io le ritengo del tutto pretestuose e intellettualmente scorrette, si basano principalmente sul fatto che confidano nella bassa cultura economica e nel basso approfondimento che mediamente c'è in Italia. Sono cose che scandalizzerebbero chiunque in qualunque altro paese europeo. Purtroppo noi siamo costretti a vivere in questo livello culturale e quindi quando si parla di mele si possono dipingere come mammut e tutti ci credono. Beh, tutti questo no. È sostanzialmente tutti l'Italia. No, ovviamente, altrimenti non li avremmo indotti almeno a quel voto alla Camera. Non credo che verrà replicato al Senato, perché se ci siamo riusciti è perché abbiamo insistito per anni, ma con argomenti, non con pregiudizi. A me sembrano argomenti i numeri che ha citato Gian Maria De Francesco di squilibrio tra contributi ed erogazioni annuali per i dipendenti di Camera e Senato, sono numeri, capite? E se il presidente dell'INPS dice mi date il monte contributivo, quanti contributi ha versato ogni parlamentare, e l'istruzione non glielo dà, perché non glielo dà? Ha diritto di non dargli il nome di che? Della privacy? Ma perché? Scusate, ma è pazzesco o no? È il prestigio che si deve al Parlamento o è un privilegio che non trova giustificazioni in un paese civile? Io ho la seconda risposta. Poi mi possono tacitare e insultarmi, ma reputo che non è che Gian Maria De Francesco, di cui ignoro cosa voti, ma non c'entra niente cosa vota Gian Maria De Francesco sul fatto che il suo mestiere è andare a vedere. Vediamo se ha ragione o torto che il sistema è in equilibrio dei dipendenti di Camera e Senato. No, in squilibrio. Di quanto è in squilibrio? Beh, quello generale dell'INPS, contributi 1, assegni erogati 1,25. Qua invece siamo contributi 1, assegni erogati 5. Vorrà dire qualcosa o no? Scusate se ve lo chiedo, ma sentiamo come la pensa invece Walter da Roma. Sì, salve Oscar, buongiorno. Senta, io volevo puntualizzare un aspetto. Io credo che sia importante chiarire che i contributi che versano tutti i dipendenti dello Stato, stiamo parlando adesso di quelli di Camera e Senato, in realtà no, sono tutti i dipendenti dello Stato o quelli di Camera e Senato? Allora, il problema secondo me è che questi contributi sono solo figurativi. Ah, quelli pubblici, sì sì, ha ragione, certo. Quindi, mentre quelli dell'INPS effettivamente escono per dalle capire banche, cosa vuol dire figurativi, il settore pubblico, diciamo, ascrive fino a 94 non faceva neanche quello. Poi e da allora infatti non siamo in grado di ricostruire purtroppo neanche individualmente la storia contributiva dei dipendenti pubblici. Questa è una delle ragioni che mi si oppone sempre quando si dice il ricalcolo contributivo del passato. Poi per il resto si fa, ma si scrivono, sono in entrata e in uscita. È una partita di giro tecnicamente. Questo vuol dire contributo figurativo. Io volevo solo dire che questo significa che lo squilibrio non è tanto, cioè addirittura diventa virtuoso quello dell'INPS, no? Per assurdo, sì, 1,25 su 1. L'altro è tutto squilibrio. E questo numero che grava sulle tasse, ovviamente, non viene mai preso in considerazione. Quindi noi non ci rendiamo conto quanto effettivamente è. Questa Bravo è la mia Walter. Considerazione. Bravissimo Walter, la ringrazio. E questa è già un'osservazione tecnica, quindi questo non si può pretendere che lo sappiano tutti, però effettivamente c'è una c'è questa particolarità ed è una particolarità che rispetto agli anni addietro, molto addietro, tra l'altro impedisce anche di fare trasparenza pura e vera, cosa che invece per la parte relativa ai fondi in squilibrio di gestione, che quindi vengono integrati dai fondi privati che sono in attivo, tipo quello delle gestioni separate, pensate alla giustizia di un sistema che riequilibra i fondi privati in squilibrio, quelli delle telegrafonici, dei postini, dei dirigenti e così via, con i fondi, sapete di chi? Con la gestione separata, cioè con i freelance più precari che esistono nella piramide della gerarchia del lavoro e delle retribuzioni italiane, quello è in attivo e si prendono i soldi lì per pagare la pensione a gli altri. Capite che c'è qualcosa che non funziona? Secondo me non funziona, no? Per dirla proprio fuori dai denti. Carla da Torino, come la pensa, sì, Carla? Sì, la penso che sono basita, dunque io sono un'altra che non ha titoli e non è competente, va bene, quindi come premessa, sono basita dall'ignoranza esistente in Italia. Ora dico, bastava sono in pensione, io sono andata con 41 anni e 4 mesi, sono una dipendente pubblica, quindi una fannullona per definizione, no, eccetera eccetera. Vabbè, okay. Ecco, va bene. Mi sono seguita tutto il dibattito parlamentare, è durato tanto, insomma c'era la radio radicale, trasmetteva. Non era molto semplice sempre da seguire, perché in alcuni casi veramente c'erano delle parti che non capivo, ma a stare un po' attenta si capiva benissimo col buon senso che quello che vale oggi per i parlamentari varrà domani per noi. Faccio un esempio, se Tito Boeri, il galantuomo Boeri, dice che va tanto bene questa legge, vuol dire che potrebbe essere applicata. È intervenuto Buttiglione a risposta di una cavolata che è stata detta e ha replicato: non esiste che oggi facciamo una legge e qualcuno ci dice ma state tranquilli che non verrà cambiata nelle prossime legislature. E Buttiglione ha replicato: ogni governo può prendere in considerazione una modifica. Adesso sì, io non mi so spiegare esattamente, sì, sì. Comunque il problema è che in Italia si ragiona per ideologismo. Mm. Io sono basita dell'ignoranza di gente che per partito preso, per seguono i titoli dei TG. Ecco, allora ecco, no ragione, sono basita. Ho capito, signora, ho capito. Cioè, lei dice c'è comunque un coefficiente di ipersemplificazione ideologica nei moventi e nelle modalità. Ecco, sintesi estremissima, ma spero rispettosa del suo pensiero. Per fortuna, come vedete, c'è gente che ha opinioni forte anche diverse. Però Gian Maria De Francesco, dimmi 30 secondi, tu ti senti un populista antipolitico? No, assolutamente. Il discorso, visto che insomma siamo andati a parlare di questioni generali, è soprattutto uno che nel 1996, quando è entrata in vigore la riforma Dini, sono stati salvaguardati coloro che al 1 gennaio 96 avevano 18 anni di contributi versati. Questo ha fatto sì che si creasse una profonda ingiustizia che oggi, quando il ricalcolo contributivo delle pensioni diciamo diventa necessario per questioni di sostenibilità della finanza pubblica, fa sì che chi insomma a quella data, insomma, tutti coloro che hanno che nel 1977 già lavoravano, quindi questo si estende fino alla generazione nata all'inizio degli anni 50, che ora si sta lentamente pensionando, pensa e ritiene che possa essere oggetto di un abuso. In realtà l'errore è stato commesso 21 anni fa. Ed è un errore che però costa carissimo ripagare di mese in mese, di anno in anno. Intanto io ringrazio Gianmaria Francesco e tutti voi. Questa è, questo venerdì a quest'ora, l'ultima trasmissione della serie prima della pausa agostana. Vi dico in breve, questa trasmissione dal lunedì 4 settembre torna e torna alle 4, dura dalle 4 alle 5. Mezz'ora in più ci dovrei essere, ma questo insomma stiamo discutendo anche la mattina, anche se non più insieme ad Alessandro Milan, vediamo, e resta anche quella di sabato. Intanto vi do appuntamento domani anche all'ultima trasmissione prima della pausa agostana, i conti della Belva dalle 10 alle 12, anch'essa tornerà al 9 settembre in questo palinsesto. Intanto grazie a tutti e a quest'ora al pomeriggio ci risentiamo il 4 settembre, ma altrimenti domani mattina datemi retta, conti della Belva.